Perfetta Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, per quanto riguarda le notizie, questo è lo scopo della trasmissione, di raccontarvi tutto quello che è successo, diciamo che abbiamo raggiunto il top. No, non perché c'è stata qualche uscita di qualche politico oppure qualche esternazione, non per i forconi, alla fine è andata piuttosto bene, anche se non erano molti. No, oggi abbiamo toccato il top con questa notizia del serial killer che è evaso a Genova, era in realtà in permesso premio e non è tornato indietro, e uno che è stato condannato per 3 omicidi, sparando in bocca alle sue vittime, violenza sessuale, rapine, insomma ne ha fatte un po' di tutti i colori e gli hanno dato questo permesso premio. Allora oggi ho lanciato questa provocazione su Twitter dicendo proprio questo serial killer fuggito durante un permesso premio, questa è la solita meritocrazia all'italiana, cioè se danno un permesso premio questo non lo so, evidentemente ritenevano che fosse meritevole di un premio. Quindi questo può essere un tema e sarà un tema centrale naturalmente di questa puntata, un fatto di cronaca che continua a essere in primissimo piano perché in fuga è armato, pericolosissimo, e quindi insomma è un regalo che qualche funzionario, magistrato eccetera ha donato evidentemente alla collettività. Ma partiamo allora dal riepilogo della giornata. Dunque, naturalmente questa è la notizia principale. A Genova questo serial killer in fuga, ricercato in tutta Italia, l'uomo evaso durante un permesso premio a Genova, è stato condannato per 3 omicidi e poi tutta una serie di altri reati. Legge elettorale: Renzi ribadisce che si farà la riforma anche con l'aiuto dell'opposizione. In aula la discussione sulla legge di stabilità, ma c'è il rischio di fiducia. Forconi: un mezzo flop per la manifestazione a Roma, il cardinal Bagnasco chiede intanto di ascoltare la piazza. All'Italia forse gli Emirati Arabi in aiuto della compagnia aerea. Domani c'è un incontro con la compagnia araba Etihad. Calcio: contrariamente a quanto detto in serata, e cioè che gli ultimi 12 tifosi laziali erano stati scarcerati in Polonia, secondo quanto risulta invece all'ambasciata d'Italia, in Polonia restano ancora 6 tifosi della Lazio. E poi bronzi di Riace, sabato riapre il museo di Reggio Calabria. Iniziamo dalla politica italiana, in particolare dal dibattito sulla legge elettorale. Matteo Renzi ribadisce la necessità di fare subito la nuova legge elettorale, ma cerca anche di tranquillizzare gli alleati di governo. Ci vedremo con il resto della maggioranza per fare un patto di coalizione, assicura il segretario democratico, rivolgendosi in particolare al leader del nuovo centrodestra, Alfano, che con lui oggi ha preso parte alla presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa. Credo che sarà naturale vedersi in modo molto rapido con quello che viene definito un patto di coalizione, un patto alla tedesca, chiamatelo come volete, un elenco di cose da fare per il 2014, anche dopo se serve. Io non ho la fregola delle elezioni anticipate. Pongo il problema politico che se non facciamo la legge elettorale ci portano tutti via. Le parole di Renzi, che aveva lasciato intendere di essere pronto a fare la legge elettorale anche con accordi fuori dalla maggioranza, non erano piaciute al nuovo centrodestra. Non credo che lui e il PD vogliano mettere in difficoltà Letta, afferma comunque Alfano. Sarebbe giustificato il Partito Democratico qualora incontrasse nei partners delle persone vogliose di far perdere tempo al governo e al paese non volendo fare le riforme, ma siccome coi fatti noi dimostreremo che la riforma la vogliamo, vedrete che tutto andrà bene. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo alla politica economica, la legge di stabilità è arrivata oggi in aula alla Camera e sul provvedimento c'è il rischio del ricorso alla fiducia. Primi passi della legge di stabilità in aula alla Camera, 38 gli interventi previsti nella discussione generale, da domani poi le prime votazioni. I tempi tuttavia stringono, l'obiettivo del governo è infatti quello di approvare il testo a Montecitorio entro venerdì per poi passare al Senato per l'ultima lettura, di qui il ricorso quasi certo alla fiducia a meno che non vi sia un'intesa, molto difficile però tra maggioranza ed opposizione sul numero degli emendamenti. Il clima non sembra dei più adatti, vista la forte contrarietà al testo in particolare di Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Per il Presidente del Consiglio Letta, tuttavia, la legge di stabilità resta un buon provvedimento teso alla crescita. L'obiettivo di avere l'anno prossimo 1% di crescita e il 2015 2% di crescita è un obiettivo alla nostra portata. I dati di questo trimestre dimostrano che è un obiettivo alla nostra portata se i tassi di interesse rimangono bassi e se i nostri conti pubblici rimangono in ordine. Critiche però dallo stesso PD, da Renzi, sul capitolo IMU. Quanto alle novità uscite dalla Commissione Bilancio, da segnalare l'istituzione del fondo taglia cuneo per la riduzione della pressione fiscale e l'alleggerimento della cosiddetta web tax. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ma sentiamo anche che cosa ha detto Letta più tardi in serata. La legge di stabilità è migliorata. oggi siamo in grado di dire che la legge di stabilità dà risposte in più sui temi drammatici degli esodati, dà risposte in più a favore del diritto allo studio, aiuta con politiche sociali nuove, finalmente categorie, gli non autosufficienti, i disabili che in questi anni sono stati maltrattati dal nostro sistema, comincia a dare alcune risposte. Non è possibile fare tutto insieme, però l'inversione di tendenza c'è, la rivendico, e questa inversione di tendenza porterà più calore sociale e sicuramente porterà crescita. E a proposito della legge di stabilità, c'è da dire che 3 settimane fa il Sole 24 Ore aveva proposto che le risorse della spending review e della lotta all'evasione fiscale venissero destinate automaticamente alla riduzione delle tasse sul lavoro, il cuneo fiscale. Il fondo è stato creato, ma l'automatismo non c'è, anzi i soldi saranno destinati anche a pensionati, al fondo si potrà attingere anche per impegni ritenuti inderogabili e scelte di politica economica diversa. Quello che il direttore del Sole 24 Ore di Radio 24, Roberto Napoletano, nell'editoriale di oggi ha definito l'impegno tradito di Letta. Il paese ha bisogno di una prospettiva, ha bisogno di un sentiero da percorrere, ha bisogno dell'indicazione di un percorso. Abbiamo detto, tutto ciò che verrà dalla spending review, dalla lotta all'evasione, vengano automaticamente dirottati a ridurre i prelievi fiscali e contributivi sui lavoratori e sulle imprese. Questo era il senso della nostra proposta editoriale, dietro la quale c'era l'intero sistema produttivo, le forze sociali del paese, tutte, e su questa richiesta, su questo fondo e su questa linea il Presidente del Consiglio si era impegnato. Noi abbiamo scoperto ieri, ma ce l'avevamo avuti già forti segnali nei giorni precedenti, che questo nuovo fondo alimentabile dalle risorse che derivano dalla spending review aveva un tale volume di limiti e di condizionamenti per cui difficilmente potrà funzionare e soprattutto non risponde alla priorità strategica da noi indicata. E ora questa storia incredibile che vi citavo all'inizio, incredibile nel senso che non sembra neanche vera, uno non ci può credere, eppure invece è così, quella della fuga di un serial killer che era in permesso premio a Genova, che ha fatto perdere le sue tracce, persona tra l'altro, come si può ben immaginare, molto pericolosa, Roberta Pellegata, no? Sì, perché chi è evaso dal carcere di Marassi a Genova, o meglio, come dicevi, non vi è mai rientrato dopo un permesso premio, è un uomo che nella vita si è macchiato di 3 omicidi, di un tentato omicidio, rapine, lesioni, aggressioni, porto abusivo di armi e altri reati, e che è stato più volte giudicato infermo di mente e che è evaso più volte durante la sua vita. Quest'uomo si chiama Bartolomeo Gagliano, ha 55 anni, siciliano di origine ma ligure di adozione, rinchiuso a Marassi dal 2006 per rapina, ne sarebbe uscito tra un anno. Era fuori in questi giorni, come già successo, per un permesso premio legato a motivi familiari. È andato a trovare la madre a Savona, ieri mattina sarebbe dovuto rientrare in carcere, invece all'alba di oggi, pistola alla mano, Gagliano ha costretto a Savona un commerciante ad accompagnarlo con l'auto a Genova e qui ha fatto perdere le sue tracce. Nell'81 quest'uomo uccise una prostituta, condannato ad 8 anni di manicomio criminale, evase nell'89 assassinando poco dopo altre 2 persone, un transessuale e un travestito, un passato da serial killer, e questa è la cosa davvero inquietante, di cui a Marassi, dove era recluso dal 2006 per rapina, non sapevano niente. L'ho dichiarato lo stesso direttore del carcere, Salvatore Mazzeo, che ha riferito: noi non sapevamo degli omicidi, abbiamo valutato Gagliano in base al fascicolo di reato per cui era detenuto qui, che risale al 2006 e che lo indica come rapinatore. Sottolineiamo, ma tu insomma lo hai già detto, che la polizia lo definisce un soggetto molto pericoloso, ricordiamo che ha con sé una pistola e che l'ultima volta è stato visto a bordo di una banda van verde, quella che ha rubato al commerciante. È arrivato il commento della Guarda Sigilli Cancellieri, ha detto: un episodio gravissimo sul quale faremo chiarezza, e la Cancellieri ha aggiunto: un episodio che rischia di essere un duro colpo a quanto si sta facendo per rendere il carcere un luogo più civile e in grado di assolvere alla propria funzione rieducativa. Grazie Roberta Pellegata. È che proprio in virtù di queste ultime cose, no, della Cancellieri, di quello che sta dicendo in questi giorni sulle carceri e di questo permesso premio che ha permesso, scusate il bisticcio di parole, a un personaggio del genere di poter uscire per delle ore in libertà, che riflessioni vi sorgono? Ci sono i soliti 2 canali per i vostri interventi, il numero per gli sms che è il 349-238-6666 oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Ma adesso passiamo alla manifestazione tanto annunciata di oggi a Roma dei Forconi. Qualcuno parla di un flop, le persone presenti non erano effettivamente molte, vero Monica Ceravolo? Non era la notte, almeno non tante quante ci si aspettava. In piazza oggi pomeriggio è scesa più che altro la rabbia della gente, erano circa in 3.000 provenienti però da molte regioni d'Italia, dalla Calabria al Piemonte, ognuno con la propria storia e soprattutto la disillusione nei confronti della classe politica. Dal palco che era stato allestito sul retro di un camioncino hanno preso la parola i rappresentanti dei presidi cittadini. La loro richiesta era tutti a casa, dal Presidente del Consiglio dei parlamentari, dai membri del governo al Capo dello Stato. L'obiettivo di chi è intervenuto alla manifestazione di Piazza del Popolo a Roma è di azzerare tutto e andare a votare al più presto. Certo non erano in tanti, appunto molti meno delle aspettative, però al contrario dei timori degli ultimi giorni non c'è stato alcun atto di violenza. Ed ecco come ha risposto Danilo Calvani, leader del Coordinamento Nazionale 9 dicembre, a chi ha definito un flop la manifestazione di oggi. Sentiamo. Beh, una piazza piena non è poca gente, è saggio violento, siamo facino rosi, abbiamo distrutto, poi c'è gente per bene, gente che è scesa in piazza rispettando tutto, senza aver rotto una vetrina, senza aver rotto una macchina. Ora è passato un messaggio importante, ora non ci tratteranno più da violenti, da estremisti, come dicono, ci tratteranno da italiani. Beh, questa può essere una lettura, insomma, un bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno. Grazie Monica Ceravolo. Grazie a voi. Grazie. E adesso parliamo invece di Alitalia, perché la compagnia starebbe per ricevere un'iniezione di capitale da circa 300 milioni di euro da Etihad Airways, cioè la compagnia di Stato di Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi. Lo scrive Bloomberg citando fonti vicine al dossier, secondo cui sono in corso delle trattative avanzate che porterebbero il vettore degli Emirati Arabi a diventare il primo azionista di Alitalia. Domani sarebbe in vista un incontro fra le parti. Passiamo alla vicenda di Lampedusa. Lega Coop Sicilia ha dato indicazione ai soci di Lampedusa Accoglienza, cioè la COP che gestisce il centro per migranti, di rimuovere e rinnovare gli attuali dirigenti. La decisione arriva dopo le polemiche suscitate da un video del TG2 di ieri sul trattamento riservato ai migranti, sul quale oggi è intervenuta anche la commissaria europea che si occupa di immigrazione. Duro monito dell'Europa su Lampedusa, spaventose e inaccettabili, così la commissaria per gli affari interni Cecilia Malmström definisce le immagini del centro di detenzione e annuncia che non solo potrebbe essere aperta una procedura di infrazione, ma che gli aiuti europei per l'immigrazione potrebbero essere tagliati se l'Italia non garantirà condizioni di accoglienza dignitose. Il suo portavoce Michele Cercone. È chiaro che le immagini di Lampedusa hanno avuto un forte impatto. Si tratta quindi di un modo di sottolineare l'importanza che le autorità italiane da un lato facciano piena luce su quello che è successo, ma dall'altro è un monito più generale fare in modo che la legislazione europea venga rispettata e applicata dappertutto. Intanto la procura di Agrigento ha aperto un fascicolo ai reati ipotizzati, violenza privata e maltrattamenti, ma per Cono Galipo, numero uno della cooperativa Lampedusa Accoglienza che gestisce il centro, è tutta una finzione. Il trattamento previsto da un protocollo, spiega, stava durando da un'ora e mezza e a un certo punto alcuni immigrati si sono spazientiti, si sono spogliati, hanno inscenato il tutto. Prudente il ministro della giustizia Cancellieri. È come quando si prende una parte di un insieme, bisogna vedere tutta la procedura, cosa comporta, come sono state eseguite. Io credo che le cose prima di giudicarle dobbiamo conoscere tutte. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Il calcio scommesse: nel giorno dei primi interrogatori arriva anche la prima ufficiosa reazione della FIFA. Sentiamo. Nessuna reazione ufficiale, ma dalla sede della FIFA di Zurigo filtra grande attenzione all'allarme lanciato dalla procura di Cremona relativo a un piano già pronto da parte dell'organizzazione criminale che fa capo a Singapore per manipolare gare del prossimo mondiale brasiliano. Insomma, si lascia intendere da Zurigo, se Cremona ha informazioni sensibili si faccia sentire, mentre la FIFA sta già mettendo comunque in campo strumenti e azioni preventive per monitorare Brasile 2014. Intanto a difesa di Rino Gattuso, nome eccellente fra gli indagati, si levano le voci del suo ex presidente al Palermo, che Ringo ha allenato a inizio stagione, Maurizio Zamparini, e del presidente della Federcalcio Abete, mentre l'allenatore della Juventus, Antonio Conte, che ha già scontato la sanzione comminatagli dalla giustizia sportiva proprio per scommessopoli, preannuncia azioni legali contro chi dovesse nuovamente tirarne in ballo il nome. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi sempre per quanto riguarda il calcio, sei tifosi reclusi della Lazio sono ancora in carcere a Varsavia, secondo quanto risulta dall'ambasciata d'Italia in Polonia. Lo si apprende da fonti diplomatiche. Nel tardo pomeriggio era invece arrivata la notizia che tutti e 12 i tifosi laziali erano stati rilasciati, cioè quelli fermati in Polonia prima della partita contro il Legia Varsavia a fine novembre. Invece 6 sembrerebbe che siano ancora in carcere. La Juventus intanto è scesa in campo poco fa, circa un quarto d'ora, in Coppa Italia contro Avellino. Per quanto riguarda la musica, mancano esattamente 2 mesi alla prossima edizione del Festival di Sanremo e oggi è stata annunciata la lista dei cantanti in gara. La parola d'ordine del Festival di Sanremo 2014 è contemporaneità. Lo dice Fabio Fazio, che oggi al TG1 delle 13.30 ha annunciato il cast dei 14 big. O meglio, prima ha twittato la lista come fece l'anno scorso e si sa che Fazio è molto scaramantico. Poi ha declamato i nomi in diretta TV. Arisa, Noemi, Raffaele Gualazzi con Bloody Beetroots, Iperturbazione, Cristiano De André, Renzo Rubino, Ron, Frankie High Energy, Giuliano Palma, Riccardo Senigallia, Francesco Renga, Antonella Ruggero, Giusy Ferreri e Francesco Sarcina. Questi sono. Abbiamo cercato di essere contemporanei, ha spiegato Fazio, cercando di scegliere pezzi interessanti che immaginiamo possano interessare la radio, il mercato, gli ascoltatori, il pubblico degli appassionati di musica. Un cast, ha sottolineato, non televisivo. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in chiusura vale la pena anche di ricordare che sabato finalmente riapre il Museo di Reggio Calabria, il 21 dicembre, la Sala dei Bronzi di Riace del Museo Nazionale di Reggio Calabria. A inaugurarla saranno il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, Massimo Brai, e il Presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti. L'apertura, per chi fosse proprio interessato a entrare nel momento in cui apre, è fissata alle 16.30. Vedo già che arrivano i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook Effetto Notte trattino Roberta Giordano, sia gli sms 349-238-6666 su questa vicenda folle di cui ancora parleremo durante questa puntata. C'è chi ci mette anche dell'ironia sulla fuga: è riuscito a farsi mettere fuori senza neanche telefonare alla cancellieri, bravo, dice uno ascoltatore. Signora mia, lo scandalo è nello scandalo senza commentare, ci facciamo pena da soli, scrive Luigi. Questo fatto porterà la gente onesta ad armarsi per autotutelarsi, denuncia Luca. E poi un altro ascoltatore, Max, buonasera, non c'è bisogno di indulti, o se ne vanno loro, li premiano, loro escono, fanno uscire ogni tipo di criminale. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Cerchiamo di approfondire tra poco i contenuti della legge di stabilità, che scontenta da varie parti. Prima vi ricordo quali sono i fatti principali. Questa storia, abbiamo detto, assolutamente incredibile. Da Genova, questo serial killer in fuga, ricercato in tutta Italia, evaso durante un permesso premio a Genova, è stato condannato per 3 omicidi, poi tutta una serie di reati, e avvisano che ha una Panda van verde targata CV 848 AW, per chi insomma dovesse sfortunatamente incappare, speriamo di no. La legge elettorale, Renzi ribadisce che si farà la riforma anche con l'aiuto dell'opposizione. In aula la discussione sulla legge di stabilità, ma c'è il rischio fiducia. Forcone, un mezzo flop per la manifestazione a Roma, il cardinal Bagnasco però chiede di ascoltare la piazza. Per quanto riguarda l'Italia, forse gli Emirati Arabi sono interessati e andranno in aiuto della compagnia aerea. Domani ci sarà un incontro con la compagnia di Abu Dhabi e Etihad. Calcio, restano ancora 6 tifosi laziali in carcere in Polonia. Bronzi di Riace, sabato riapre il museo di Reggio Calabria. E saluto Dino Pesole. Caro Dino. Buonasera Roberta, eccomi. Dino Pesole del Sole 24 Ore, che ci aiuterà a capire un po' questa legge di stabilità in discussione adesso alla Camera, ci dovrebbe poi insomma votare per domani, vari sono gli emendamenti, e oggi hai sentito, hai letto naturalmente l'editoriale molto critico del direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, che praticamente ha parlato di un tradimento, di qualcosa che non è nell'interesse della collettività. Questa legge di stabilità è anche l'accusata di, dice, intrisa di populismo. Come te lo spieghi? Ma dunque il punto fondamentale è sostanzialmente questo: nell'anno in cui per fortuna usciamo dalla recessione si dovrebbe avere un po' il coraggio di puntare un po' più in alto. Quando è che usciamo? L'anno prossimo, vuoi dire? O quest'anno? Sì, quest'anno chiudiamo con un PIL che scenderà sotto il 2%. Mm. Secondo le previsioni del governo, nel 2014 dovremmo essere attorno all'1%, ma altri, ad esempio la Commissione europea, stima lo 0,7%. Ma a parte questo, il punto fondamentale all'interrogativo è: questa legge di stabilità è in grado o no di dare l'auspicata scossa alla nostra economia? Allora, noi abbiamo provato come giornale 3 settimane fa a fare una specie di sondaggio sentendo tutte le parti produttive e sociali del paese. È emersa una richiesta unanime, cioè quella di chiedere al governo di inserire in legge finanziaria, in legge di stabilità, ora nel passaggio alla Camera, un meccanismo che vincolasse in modo semiautomatico, se vogliamo, i proventi che si riusciranno a recuperare dalla lotta all'evasione e i risparmi della spesa alla riduzione delle tasse sul lavoro, punto. Questa era sostanzialmente la proposta, sulla quale il Presidente del Consiglio si era anche impegnato col giornale, insomma, sostanzialmente aveva detto che il governo avrebbe fatto di tutto per inserire questo emendamento. Ebbene, l'emendamento c'è stato, il problema è che nella formulazione con cui è stato presentato e votato, di fatto non c'è questa certezza. In primo luogo si dice che i risparmi della spending review dovranno andare necessariamente a delle spese indifferibili, è d'accordo, ad esempio le spese militari per il finanziamento delle missioni, certo sacrosante. Poi si dice compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, anche questo va benissimo perché noi siamo il primo giornale a sostenere che i conti pubblici debbano essere in ordine, però a questo punto non c'è più quell'automatismo che secondo noi era necessario per dare una scossa all'economia dal punto di vista dello sgravio sul costo del lavoro. Ci sarà forse qualcosa in questo fondo, ma molto poco. Allora, qui il problema, al di là delle cifre, è che questa legge di stabilità, per molti motivi, non ultimo ricordo il fatto che si è stati costretti a rincorrere faticosamente coperture per abolire 2 rate dell'IMU che sono costate 4 miliardi, allora ci si chiede se invece di rincorrere, per motivi che si comprendono, che sono di carattere politico e di equilibri politici, la vicenda dell'IMU, se non fosse stato più produttivo dirottare queste risorse verso la priorità. Cioè, in questo momento noi abbiamo la priorità assoluta, il paese non cresce. Abbiamo sì, l'IMU è stato, lo sappiamo, un pasticciaccio brutto che poi non si è neanche risolto, che ha tenuto l'attenzione per un anno intero, che poi alla fine si legge stangata nel 2014 sulla casa e in parte si pagherà, quindi un guaio generale. Però Dino Pesole, diceva Letta in serata, insomma, noi, dice, questa legge di stabilità in realtà è man mano migliorata, abbiamo dato delle risposte in più sugli esodati, sui disabili, l'aiuto allo studio, dice, non è possibile fare tutto insieme. Certo, questo è vero che ci sono dei segnali interessanti, e quello che si poteva fare con le scarse risorse disponibili il governo ha provato a farlo. Qui si trattava di fare qualcosa in più, se vogliamo anche di dare un segnale, perché come sappiamo l'economia è qualcosa di labile, cioè alle volte ci sono delle componenti che hanno poco a che fare con la politica, l'economia è molto, ad esempio, con la fiducia, che è un elemento che domani potrebbe essere messo per rilanciare la crescita dei consumi. In quel senso. E allora dare fiducia a un paese significa scommettere sul paese. Forse questa strada del provare a vincolare i futuri, perché qui non stavamo parlando di cose immediate, i futuri risparmi della revisione della spesa e quello che si avrà dalla lotta all'evasione, convogliarli in via prioritaria, che poi nella proposta del giornale c'era anche di destinare una parte alla riduzione del debito, non è che fosse tutto una manovra da deficit spending. Forse un po' più di coraggio sarebbe stato necessario. Utile. Vediamo domani Dino Pesole, poi appunto quando sarà votata definitivamente, se si porrà la fiducia, certo, ci si aggiorna insomma domani. Grazie Dino Pesole intanto. Grazie, buona grazie serata. Ciao. Vedo altri vostri messaggi che arrivano sempre sul caso folle di oggi, ma poi ne parleremo in modo approfondito con un ex magistrato che ci spiegherà vari paradossi, insomma, delle leggi italiane. Tra poco. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Riprendiamo allora con le notizie di oggi, in particolare in primo piano, vi dicevo, quella del serial killer fuggito durante un permesso premio. Stanno arrivando moltissimi vostri messaggi attraverso gli sms e anche la pagina Facebook, che è Effetto Notte trattino Roberta Giordano. Tra poco parleremo anche di altre questioni importanti di oggi, ma da un punto di vista più politico. Adesso però vi ricordo, visto che c'è stata questa pausa, per chi si fosse messo in ascolto adesso, quali sono state le notizie principali per titoli. Quella, abbiamo detto, da Genova, della fuga del serial killer ricercato in tutta Italia. L'uomo evaso durante un permesso premio a Genova è stato condannato per 3 omicidi e viaggia su una Panda van verde. Legge elettorale: Renzi ribadisce che si farà la riforma anche con l'aiuto dell'opposizione. In aula intanto c'è la discussione sulla legge di stabilità, ma c'è il rischio fiducia, ne parlavamo poco fa. Forconi è stato un mezzo flop per la manifestazione a Roma, non c'era moltissima gente, ma secondo Calvani, uno dei leader, è già un mezzo successo il fatto che non sia successo nulla di grave. All'Italia, forse gli Emirati Arabi sono interessati, arrivano in aiuto della compagnia aerea, domani ci potrebbe essere un incontro con la compagnia Etihad. Calcio: sono ancora 6 i tifosi incarcerati in Polonia, i tifosi laziali che erano stati fermati a novembre. Poi una buona notizia per i bronzi di Riace, visto che sabato riapre il museo di Reggio Calabria. E adesso saluto Yoram Gutgeld, benvenuto. Buonasera. Deputato PD, considerato il guru economico di Matteo Renzi, è vero? No, i guri sono in India, io sono un deputato, diciamo, cerco di fare il mio meglio. Diciamo una rappresentanza più italiana, una traduzione italiana di qualcuno che comunque ispira non poco il leader del momento Renzi, e ci auguriamo per lui che lo sia a lungo, se manterrà per l'appunto le promesse, visto che ha grandi responsabilità sulle sue spalle. Gutgeld, io volevo partire dalla proposta per il piano sul lavoro, che oggi aveva guadagnato diverse posizioni nei titoli delle prime pagine online, cioè quello appunto proposto da Matteo Renzi. Però c'è stato un ulteriore aggiornamento, poi ci ritorniamo su questo, è andato un po' più in là su altre questioni, la riforma elettorale, no? È ritornato Renzi a sottolineare che questa è una priorità. Però le chiedo prima una cosa: queste dichiarazioni che ha fatto Renzi questa sera sul fatto che è importante fare un patto di coalizione anche con il centrodestra, eccetera, dove l'ha detto? L'ha detto alla presentazione dell'ultimo libro di Vespa, cioè il libro più presentato, più recensito del Globo in questo momento. E evidentemente, come mai ha subito partecipato a un rito molto molto tradizionale della politica italiana, tra politica, spettacolo, gossip, giornalismo? Renzi si è immediatamente conformato o era solo un momento così di visibilità? Adesso, se vogliamo fare una notizia del fatto che Renzi è andato alla presentazione del libro di Bruno Vespa. No, è una curiosità, è stato un po' strano vederlo su, lui il ribelle, e vederlo in una cosa molto tradizionale, no? Sì, però insomma, mi sembra che ci stia, no? Anzi, che Berlusconi c'erano Alfano e Renzi, no? Età media ridotta di 30 anni o... Quindi c'è stato un cambio generazionale anche nella presentazione del libro di Vespa. Va bene. Questo è già un passaggio. Invece, sulla questione della legge elettorale, lei dice che Gutgeld dice che si farà, che Renzi riuscirà a mettere insieme le varie forze per riuscire ad arrivare a un accordo, un compromesso entro le europee, quindi entro maggio? Beh, è fondamentale. Noi adesso, dopo la decisione della Corte Costituzionale, ci troviamo con una legge elettorale assolutamente inaccettabile, mi lasciate dire, molto peggio del Porcellum. Questa è una legge elettorale che non può dare nessuna garanzia di nessun tipo a questo paese, quindi è fondamentale che troviamo una legge elettorale alternativa, e dobbiamo farlo con, appunto, chi ci sta, sperabilmente con la maggioranza, però allargandolo a tutto il Parlamento. Invece, visto che è in discussione la legge di stabilità, domani forse si porrà la fiducia, comunque va votata, lei che ne pensa? Darebbe un voto da 1 a 11? Cosa voterebbe? Ma una legge che parte con tanti vincoli di risorse e numeri, direi che più della legge di stabilità sono importanti le azioni che il governo prenderà nel prossimo anno sul fronte del lavoro, riduzione spesa, contrasto all'evasione. Questo sarà il terreno di valutazione. Però il voto? Che voto darebbe? No, adesso non mi faccio fare dei voti. Insomma, il professore non faccio. Meno male che non faccio il professore. La soddisfa o no, diciamo? Dice, cioè, le risorse sono poche. Non mi entusiasma. Non la entusiasma, questo è chiaro. E sul piano per il lavoro invece di Renzi, la sua proposta, il centro di questa proposta è facciamo assumere dei giovani, facilitiamo l'assunzione di giovani a tempo indeterminato ma senza l'articolo 18, il famoso famigerato articolo 18 tanto contestato, che è quello che prevede il reintegro in caso di licenziamento per ingiusta causa. Ma secondo lei è proprio l'articolo 18 è la chiave di volta per risolvere il problema dell'occupazione in Italia, Guttgeld? Proprio... No, assolutamente no. Devo dire di nuovo, questo è purtroppo diventata un po' una notizia giornalistica. Diciamo prima di tutto che le regole del mercato del lavoro non creano lavoro. Noi abbiamo un problema, quindi il lavoro si crea prima di tutto con imprenditori che investono e che creano posti di lavoro, quindi questo è importante dirlo. Il lavoro si crea abbassando le tasse e mettendo più soldi in tasca ai lavoratori e così via. Queste sono le cose più importanti. Dopodiché, sul mercato del lavoro abbiamo in realtà un problema che si chiama dualismo. Dualismo vuol dire che noi abbiamo una serie di persone che sono in qualche modo garantite e protette, anche se devo dire sempre di meno, perché di fatto vediamo in una situazione di crisi tutti i posti di lavoro sono a rischio, però comunque abbiamo una serie di persone garantite e invece soprattutto i giovani che non hanno né nessuna garanzia, quindi sono in deserto, vivono in deserto di precarietà e poi non hanno nessuna garanzia se perdono il posto di lavoro, non hanno un sussidio di disoccupazione, non hanno un sistema che li aiuta a trovare un posto di lavoro alternativo e così via. Quindi la sfida quanto riguarda il mercato del lavoro è proprio dare risposta a questo, cioè per di contrastare questo deserto di precarietà. E questo significa, prima di tutto, ovviamente, offrire un sistema di protezione a chi perde il posto di lavoro, significa un sistema di riqualificazione professionale, significa anche dare un'alternativa al contratto di lavoro precario, che da noi purtroppo viene usato spesso anche in modo improprio, che non sia il tradizionale contratto a tempo indeterminato con la protezione che offre questo contratto. Quindi in questo senso l'idea di lanciare una forma aggiuntiva, quindi non sostituisce, non cancella, non toglie nulla, aggiunge un'alternativa che bisognerebbe fare in modo che sia un'alternativa al contratto precario. Ecco, questa è l'idea. Dopodiché il progetto lo svilupperemo durante il mese di gennaio, quindi sarà possibile valutare le proposte concrete che saranno articolate in questo mese. Guttgeld, vedo che stanno arrivando varie agenzie man mano su delle dichiarazioni di Silvio Berlusconi, che è riunito con i parlamentari nella sede di Forza Italia. Allora, dice fra le varie cose: oggi siamo in una repubblica giudiziaria e su questo non vi è dubbio. Poi si dice fiducioso del fatto che è convincimento che possiamo tornare a governare. E poi dice anche un'altra cosa, vediamo se riesco a aprire questa agenzia. Dice: dobbiamo comunicare quello che mi sta capitando all'estero. Viene definito, dice, come colpo di Stato, coup d'état, un colpo di Stato tranquillo, senza esercito nelle strade, ma comunque un colpo di Stato. Noi dobbiamo comunicare, dice evidentemente Berlusconi, ai suoi tutte queste cose, lo afferma Silvio Berlusconi a quanto raccontano nel corso dell'incontro con i parlamentari di Forza Italia, che contro di lui c'è stato un colpo di Stato. Come commenta Guttgeld? Il primo commento che mi viene da fare è di non commentare, perché siamo 20 anni che commentiamo queste affermazioni e continuiamo a occuparci di problemi di italiani, non di Silvio Berlusconi. Francamente questa è l'unica risposta che mi sembra degna, basta con Berlusconi. Per il momento allora basta. E ritornando all'argomento di prima, il piano per il lavoro di Renzi, visto che ha stretto la mano a Landini della FIOM, quindi vuole essere, diciamo, non dico ecumenico, ma insomma cercare di avere dei buoni rapporti un po' con tutti per vedere di arrivare a delle soluzioni condivise. Come hanno reagito i sindacati a questa proposta di levare? No, non c'è ancora una proposta. Allora, siamo chiari. la proposta non è una proposta, sono idee, idee, ipotesi, peraltro già discusse nel passato, che poi Renzi ha lanciato durante le ultime settimane della campagna congressuale. Dopodiché io credo che noi assolutamente dovremo coinvolgere, parlare con i sindacati, fondamentale, e valuteremo le proposte concrete quando ci sono le proposte concrete a gennaio. Senta, secondo lei, per chiudere, Guttgeld, una delle proposte nel programma, dei punti insomma del programma di Renzi particolarmente vincente, che la convince, qual è? Ma adesso di fatto noi abbiamo sempre detto che la cosa più importante sono due cose più importanti: il lavoro, il Jobs Act di gennaio sarà uno di questi, e l'altra cosa che collegata alla creazione di opportunità di lavoro è la riduzione delle tasse sui lavoratori dipendenti. Perché ha visto che con la legge di stabilità non ci sono riusciti molto al momento. La stabilità è molto stabile, ecco. Dovremmo lavorare per far qualcosa più forte. Grazie Yoram Guttgeld, io le auguro buon lavoro allora intanto. Grazie, arrivederci, buona serata. Buona serata. E vedo molti vostri messaggi invece sull'argomento che riprenderemo tra pochissimo, quello della fuga di un serial killer impermesso premio dopo tutti i reati terribili commessi. Per esempio dice Fabrizio da Salerno: dal vostro servizio ho ascoltato che il serial killer sarebbe comunque uscito tra un anno, e questo è il vero problema, 3 omicidi e sarebbe già libero dopo così poco tempo, evadendo oggi, dice, ha solo anticipato di 12 mesi quello che avrebbe fatto lo stesso dopo. Fabrizio da Salerno, poi ce ne sono molti altri che leggerò tra poco. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Adesso è il momento allora di affrontare con chi se ne intende, chi conosce la giustizia da dentro, questo fatto pazzesco di oggi. Però se voi siete messi d'ascolto in questo momento, dopo questa pausa, vi ricordo proprio brevemente i fatti principali di oggi. E cioè, a partire da questa fuga a Genova di un serial killer in permesso premio, evaso appunto durante questo permesso premio, ed è stato condannato per 3 omicidi e altri reati sulle spalle. La legge elettorale, Renzi ribadisce che si farà la riforma anche con l'aiuto dell'opposizione, vuole mettere tutti d'accordo. Intanto in aula alla Camera c'è la discussione sulla legge di stabilità, domani ci potrebbe essere il rischio che venga posta la fiducia. Forconi, è stata la manifestazione a Roma un po' un mezzo flop, il cardinal Bagnasco chiede però di ascoltare la piazza. Per quanto riguarda l'Italia, forse si fanno avanti, sono interessati gli Emirati Arabi e domani ci dovrebbe essere un incontro con la compagnia aerea Etihad. E poi la notizia che riguarda i bronzi di Riace, cioè che questo sabato riapre il museo di Reggio Calabria. Allora io saluto Bruno Tinti, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera Tinti, che è ex magistrato, giornalista, scrittore. Tra i suoi libri ha scritto Toghe Rotte, cioè, parlando di come la giustizia vista dall'interno funziona e di come si possono spiegare, almeno raccontare, certi paradossi incredibili della nostra giustizia. E il fatto di oggi è uno dei più eclatanti, anche se ce ne sono stati moltissimi nella nostra storia anche più recente. Per chi non avesse sentito prima, è la vicenda appunto di quest'uomo, del 55enne, che è condannato per 3 omicidi, considerato quindi un serial killer, alla fine alle sue vittime sparava in bocca, poi una violenza sessuale, rapine, estorsioni, è stato trovato in possesso di armi, di droga, ha evaso più di una volta, non è stata la sua prima evasione questa, e ha avuto questo permesso premio. Un'altra cosa assurda, fra l'altro, è che il direttore del carcere dov'era, di Genova, di Marassi, Salvatore Mazzeo, dice: noi non sapevamo che avesse quei precedenti penali, per noi era un rapinatore, perché l'ultimo dei suoi reati era stato quello di una rapina. Bruno Tinti, io le leggo velocemente solo alcuni dei tantissimi messaggi che sono arrivati sia attraverso gli sms al 349-238-6666 sia attraverso la pagina Facebook Effetto Notte - Roberta Giordano. Dice per esempio un ascoltatore: si è capito, ho capito male, avete detto che sarebbe comunque uscito fra un anno, e così infatti pare. Un serial killer, scrive un altro ascoltatore, in permesso premio, chissà quante cose così succedono, tanto il magistrato che ha autorizzato un fatto così non pagherà mai, e non ci dicono manco un nome, i magistrati sono degli impuniti, ma loro però puniscono gli altri. E poi ancora, da Genova vi dico, se non fosse evaso fra un anno sarebbe stato comunque fuori, vi sembra normale? Questa è la vera vergogna, questo individuo una volta uscito regolarmente avrebbe certamente di nuovo ucciso e rapinato. Tina scrive: chi ha concesso verso la vacanza premio dovrebbe essere denunciato per complicità nella fuga, stessa accusa per chi ha legiferato per concedere tali poteri a questa persona e moltissimi altri, insomma, poi ne leggerò se c'è tempo altro. Bruno Tinti, ci aiuti a spiegare com'è possibile che accadano queste cose? Sembra che non ci sia, non ci credono le persone, non ci credo neanch'io personalmente, però così è. Guardi, ovviamente il fatto è gravissimo, ma per ragioni completamente diverse da quelle che immaginano gli ascoltatori che hanno scritto. L'informazione data è tutta sbagliata. E il nostro Gagliano non era in prigione per omicidio, per l'ottimo motivo che la condanna per l'omicidio l'aveva già scontata. Tre omicidi. Non sono tre, sono due e un tentato omicidio. Ma la verità è che lui non venne per questi omicidi condannato al carcere perché venne ritenuto infermo di mente, pazzo. E andò al manicomio criminale. E andò al manicomio criminale, 8 anni. Ora, la legge è questa e tutto sommato è ragionevole. Se una persona è pazza e non è in grado di intendere e di volere, non può essere trattata come una persona sana. Però va curata. Quindi, e non lasciata in libertà, voglio immaginare, o no? E infatti lui doveva andare in manicomio giudiziario, da dove scappò una prima volta. Quindi uccise un'altra persona, ne ferì un'altra e fu rimesso in manicomio giudiziario. La pena per gli omicidi, dunque, è stata integralmente scontata. Tenga conto che questo è molto importante con riferimento a tutta la storia molto enfatizzata, che di cui ha dato conto anche lei, quanto alle parole del direttore del carcere da cui adesso è uscito, che ha detto una cosa sacrosanta. Lui ha detto: guardate che per me lui era in galera per rapina e la legge prevede che io debba dire al magistrato, e sa benissimo quali sono i precedenti di questo tizio, cioè che sono stati commessi degli omicidi, perché il magistrato ha in mano tutti i precedenti di quello su cui deve decidere, ma io, direttore del carcere, gli devo solo dire come si è comportato in carcere durante il periodo in cui era detenuto per rapina. Quindi il magistrato si è comportato in manicomio giudiziario, è cosa che io non so e che non mi riguarda. Quindi è il magistrato, allora, che doveva tenere presente di tutti questi aspetti, delle recidive. Sì, certo che doveva, non solo, ma guardi che io non vado a finire nella giustificazione, lo dico subito così può ascoltare lei e i suoi ascoltatori con serenità quello che devo dire. Il fatto è gravissimo, sono stati commessi degli errori, però bisogna capire come sono andate le cose. Quindi questo tizio non era detenuto per omicidio, la pena per gli omicidi l'aveva completamente scontata. Adesso poi, se quei processi furono giusti, sbagliati, se era davvero infermo di mente, se non lo era e allora avrebbe dovuto essere condannato all'ergastolo, è cosa che né io né lei né gli ascoltatori sappiamo, sono processi di 20 anni fa, i giudici sia in un caso che nell'altro hanno deciso che era pazzo e che doveva andare in manicomio. Quello che è importante è che sia questa volta, ma soprattutto sia nel 1990, quando era ancora in manicomio per via della condanna per l'omicidio, lui aveva ottenuto un altro permesso premio ed era evaso. Però cioè lui di evasioni ne ha fatte molte, ma in particolare lui ne ha fatte già due perché aveva ottenuto un permesso premio. Quindi è evidente che, adesso è facile giudicare col senno di poi, ma la valutazione di una personalità del genere fatta dal magistrato di sorveglianza deve tener conto di tutto quello che è successo. Mi sembra prima. Di sì, ci sembra. Poi. Sì, però è anche vero che negli ultimi anni, mentre era detenuto per rapina, l'unica ragione per cui era detenuto, non più per omicidio, in carcere si era comportato bene. Cioè l'uomo che nel 1981 aveva ammazzato una prostituta e che qualche anno dopo ammazzò un transessuale, apparentemente era cambiato. tanto che il direttore del carcere disse: ma qui si è comportato bene. E qui si apre tutto il discorso. Che cosa vuol dire per un detenuto comportarsi bene? Che cosa vuol dire? Questa è la cosa gravissima, vede? Ed è questo che rende questa riforma che sta partorita dal fervido cervello del ministro Cancellieri, la rende una cosa abominevole. Voi sapete che un anno in prigione non è un anno, fino adesso erano 9 mesi, perché a ogni detenuto venivano abbonati 3 mesi ogni anno di galera. Adesso la cancellieri l'ha portati a 5, cioè un anno di galera. Uno si fa metà. Un detenuto vale 7 mesi. Ma uno potrebbe dire: ma se si è redento, se ha capito, se si è emendato, se ha sbagliato, se ne è reso conto, se quindi si comporta bene, cioè fa del volontariato, aiuta le persone, fa qualche atto eccezionale, è già anche giusto. Tinti, però io le voglio chiedere una cosa, mi scusi. Perché questo è il punto fondamentale. Sa che cosa vuol dire si comporta bene? Sì. E sa perché che dunque vengono dati tanti. Vuol dire che non ha ucciso nessuno in carcere? Se vuol dire che non ha fatto casino. Vuol dire che se ne è stato tranquillo senza fare niente. E questa valutazione viene data ogni 6 mesi. Perché sa che cosa succede? Prenda uno come Galliano, passa 6 mesi a fare un casino d'inferno, magari organizza una rivolta carceraria, viene scoperto, viene picchiato, ovviamente perché bisogna reprimere la rivolta, per quei 6 mesi non ha diritto allo sconto pena, poi va in ospedale perché si deve curare, non fa niente di male perché sta in ospedale, certo. Ma 6 mesi dopo gli tocca lo sconto. Pazzesco. Permesso, capito? È pazzesco, Bruno Tinti. Senta, adesso purtroppo ci dobbiamo lasciare, ma leggo fra i tanti messaggi anche questo di Mario, che dice: siccome aveva detto la cancellieri sta in serata, noi che stiamo facendo tanto per rendere le carceri più civili, dice: ma se i serial killer fuggono, scrive Mario, il carcere diventa più civile. E con questo mi sembra, insomma, possiamo. Sì, la cancellieri ha trovato il sistema di risolvere la crisi carceraria scarcerando i detenuti. Non è che sia una grande idea, risolveremo la crisi degli ospedali buttando fuori i malati. Bruno Tinti, mi sa che avremo modo di risentirci. Io intanto la ringrazio e rimango comunque a bocca aperta. Grazie. Arrivederci. Grazie. Adesso invece ci colleghiamo con il vicepresidente di Amnesty International Italia, Paolo Pobbiati. Buonasera, Pobbiati. Buonasera a voi. Perché vorrei anche toccare l'argomento, nei 4 minuti che ci rimangono, dell'amnistia che è stata votata in Parlamento in Russia e che permetterebbe di liberare quindi le famose Pussy Riot, questo gruppo rock che aveva cantato in chiesa ed erano state incarcerate, una anche ai lavori forzati, e poi anche gli attivisti di Greenpeace, compreso il nostro Christian D'Alessandro, no? Però sembra che non sia uno zuccherino, un'ipocrisia questo varo di questa amnistia in realtà in Russia. Allora, prendiamola pure come una buona notizia, nel senso che consentirà a molte persone che non dovrebbero trovarsi in carcere perché lo sono soltanto per aver espresso in maniera pacifica, non violenta, le loro opinioni politiche o per aver partecipato a manifestazioni, vedi gli attivisti stranieri di Greenpeace, e di uscire dal carcere. Sicuramente è quello che noi possiamo definire un provvedimento di facciata. Diciamo che oggi la Russia si libera di alcuni prigionieri che sono particolarmente scomodi dal punto di vista dell'immagine internazionale, e in questa maniera evita di affrontare il vero problema, che è il problema di un sistema giudiziario e legislativo che è pesantemente penalizzante nei confronti di chi in Russia oggi esprime, appunto, in forma pacifica non violenta, il proprio dissenso. Diciamo che non sono proprio in primissimo piano, tra l'altro, i diritti civili, no? In Russia, parlando per esempio di omosessuali, solo per fare un esempio. Assolutamente, c'è questa legge passata giugno scorso che appunto di fatto legalizza l'omofobia, perché impedisce qualsiasi forma di riconoscimento, di attivismo contro la discriminazione per le persone LGBT, e appunto in un paese pesantemente omofobo come la Russia, ricordiamo che c'è stato proprio poche settimane fa un attacco, fra l'altro con fucili, mazze da baseball, presso l'ufficio di un'organizzazione che assiste persone gay che hanno contratto l'HIV. Appunto, sicuramente la mancanza di volontà politica di reprimere anche questo genere di violenze è un altro elemento che va a sommarsi appunto anche alla legge che proibisce le organizzazioni la possibilità di difendere persone LGBT. Quindi proprio in 30 secondi, Pobbiati non un paese certo da prendere a modello, e un paese su cui ci sarebbero veramente tante cose da dire, anche se abbiamo poi rapporti stretti, commerciali, di affari di altro tipo, no? Sì, assolutamente. La Russia, esattamente come altri paesi che si trovano nella stessa situazione, è passata dal periodo dell'Unione Sovietica, quindi da un regime dittatoriale, repressivo nei confronti delle libertà individuali, oggi si affaccia alla ribalta internazionale come paese moderno. Ma non lo è. Certo, perché la modernità consiste anche nel sapere gestire e rispettare il dissenso. Grazie Paolo Pobbiati. Grazie, adesso sentite la sigla che si alza, perché ci dobbiamo lasciare, poi ci ritorniamo tra pochissimo, giusto per ricordarvi i fatti principali.